Il primo appuntamento di Fenomenologica 5 sarà martedì 30 agosto con Angela Amalfitano, che incarna il mito di Antigone e ci condurrà attraverso diverse versioni del mito. Sì, il titolo infatti è Antigone e gli specchi. Gli specchi sono gli autori del Novecento che dopo Sofocle hanno riscritto a modo loro la storia di Antigone. Sono questi autori, Jean Anouilh, che l'ha scritto nel 1942 durante la Francia occupata dai nazisti, Bertolt Brecht nel 1948 dopo la devastante guerra e dopo che la sua Germania ha avuto la caduta della guerra, e Marguerite Yourcenar. La tengo per ultima perché è anche ultima nel copione ed è un racconto che io leggo in maniera completa, che lei però ha scritto durante una sua permanenza in Grecia nel 1936 ed è uno dei racconti della raccolta fuochi da cui io ho attinto a piene mani in tanti altri miei lavori sulle eroine e sulle donne del mito greco. Ci tengo a dire che sarò accompagnata col canto e la musica, le sonorità mediterranee da Guido Sodo. Quindi sarà un excursus storico e filologico di quello che è stato appunto questo mito, che a seconda dei tempi in cui è stato, non voglio dire usato, però comunque è stato attraversato, ha preso appunto differenti scritture a seconda dei contesti storici. Sì, assolutamente, perché come sapete il mito è che Antigone si ribella al potere di Creonte nella città di Tebe perché suo fratello Polinice, avendo attaccato la città di Tebe, Creonte non vuole dare sepoltura ufficiale a Polinice perché lo considera un nemico della città-stato. Invece Antigone vuole seppellire suo fratello. Quindi è lo scontro tra le leggi non scritte, le leggi morali e la legge dello Stato, la ragion di Stato che è incarnata da Creonte. Dunque è simbolicamente, metaforicamente, è lo scontro tra il potere e le minoranze, il non ascolto, l'ingiustizia rispetto a tutti i deboli, i fragili, gli emarginati e le minoranze, in questo caso rappresentata da Antigone. E quindi è chiaro che ogni autore può, a seconda della sua epoca, della sua storia, della storia, della sua attualità, riscrivere il mito anche in maniera moderna. Come oggi, in una società globale così ingiusta come quella che stiamo vivendo, così sorda, così appiattita, è anche, secondo me, molto giusto e attuale parlare di Antigone. Benissimo, ti ringraziamo tanto di questa spiegazione e ci vediamo quindi il 30, cioè domani. Alle 21 a Villa Spada, nell'anfiteatro di Villa Spada, con Guido Sodo, come dicevo, con me e prodotto dall'associazione Tra un atto e l'altro APS.